Giuseppe, buongiorno. Sì, io volevo dare il mio contributo perché sono stato vittima nei primi anni delle scuole del bullismo e poi sono passato dall'altra parte della barricata. È diventato bullo. Sono diventato bullo. Questo grazie a un professore che aveva capito la situazione, mi aveva visto soffrire, prendere. Mi usavano come il punchbowl nel Luna Park. Cioè due persone, due miei compagni di classe, mi davano i pugni e misuravano quanto mi spostavano col pugno stesso per vedere chi era più forte tra di loro. Quindi si figuri che a che situazione eravamo arrivati. Quanti anni fa accade questo? Io ho 52, questa era la prima superiore. Ma il bullismo l'ho subito dalle elementari, cioè da già mio padre alle elementari mi diceva: ma perché quando giochi con i tuoi compagni vai sempre a finire tu sei sotto e le prendi? Non era perché ero debole, ma perché in quella situazione, non so spiegare il motivo, ritenevo forse gratificante per il mio compagno nel confronto essere lui quello che vinceva e glielo concedevo. Sì, diciamo la stazza fisica o la capacità di difendersi con le proprie mani, in queste situazioni non serve a nulla. Io ho citato l'esempio, ma potrei sollecitarlo, di ragazzi che al di fuori di un ambiente vessatorio sarebbero capaci con le loro mani di difendersi benissimo, quindi di evitare l'handicap fisico nei confronti una persona che vuole sopraffarti, perché il primo istinto dice: se io fisicamente lo domino, ma non me ne importa nulla, la prima volta che fa uno scherzo gli giro la faccia con uno schiaffo e non ci prova più. No, invece c'è una sorta di blocco che inibisce anche le capacità reali di difendersi.